Veramente gran bel disco, quello di Nathan Fake, quello che ci siamo appena ascoltati con Drowning in a Sea of Love. Il brano era The Sky Was Pink, ma ancora più gran bel disco quello che ha aperto Eclettica in questa quarta parte della 29esima settimana in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM. E quello uscito per la Anticon a nome Gel, dal titolo Soft Money, dal quale noi ci siamo ascoltati WMD. E questo è il brano che ha aperto Eclettica in questa sua quarta parte. Vi ricordo Nico Case martedì 9 alla Casa 139, Two Gallants giovedì 11 alla Casa 139 di Milano. Scrivete a giulia@radiorockfm.com per avere i biglietti di queste due date. Invece ho dato ufficialmente per disperso il foglio con i concerti del mese di maggio dello Zero Music Club, quindi per questo venerdì sappiate che trovate un concerto, non vi so dire quale. Per venerdì prossimo vedrò di essere più preparato. Ora vediamo di proseguire con una prova che arriva dalla Scandinavia per la Wichita Recordings, un duo svedese che nella canzone che ci stiamo per ascoltare si fa dare una mano da una voce femminile di Victoria Bergsman, per la precisione dei The Concrete, per la precisione appunto è la voce che ci stiamo per ascoltare. Peter Bjorn and John invece è il nome di questo duo, due giovani ragazzi svedesi che da ragazzi, da giovani, da bambini facevano musica, così almeno hanno dichiarato, e fino ad ora non avevo avuto la possibilità di ascoltarli, però direi che questa prima Young Folks è sufficientemente convincente. The young side, and we don't care about the old folks. Fu nel 1605 che Joseph Hall, scrittore di satira e futuro vescovo, si recò per la prima volta nelle Fiandre. Quante chiese demolite vedemmo lungo la strada, non erano rimasti che cumuli di macerie, a dire al passante che vi erano state devozione e ostilità. Oh, le dolorose impronte della guerra! Ma con mia meraviglia le chiese cadono e i collegi di gesuiti sorgono dovunque. Non vi è città dove non vengano costruiti. Da che cosa deriva ciò? Forse perché la devozione non è così necessaria come la politica? Questi uomini, come diciamo della volpe, si comportano meglio quando sono maltrattati. Nessuno più insultato, nessuno più odiato, nessuno più contrastato dai nostri. Eppure questa malerba cresce. Questo era l'incipit de I diavoli di Loudon, di Aldous Leonard Huxley. Oh, oh, oh, oh, ah. È un nuovo singolo che mi è arrivato da parte della Warp Records, anche se in effetti l'album che lo conteneva aveva qualche mese di più sulle spalle. Lui è Jamie Liddell, magari ve lo ricordate come voce dei Super Collider, magari ve lo ricordate a dare una mano appunto alla voce alla Matthew Herbert Big Band con la D. Chissà perché mi è uscito con la G, ma sarà magari anche un po' la stanchezza. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, in quella che sta per giungere alla conclusione come quarta parte di Eclettica di questa 29esima settimana, un disco che ci ha avvicinato a certe atmosfere che vediamo di proseguire virando più sul jazz, da un disco che ha alti e bassi, quello di Jamie Liddell, invece un album che a me ha convinto appieno, e mi succede veramente raramente con le compilation tributo. Sto parlando di Exit Music's Song with Radioheads. Di questo album conosciamo benissimo la versione di Just fatta da Mark Ronson assieme a Alex Greenwald, conosciamo abbastanza No Surprises di Sean Lee, ma vediamo come un gruppo jazz come quello dei Bad Plus ha rifatto Karma Police. so sleepy, just take this now, leave me. I said, please don't slow me down if I'm going too fast. You're in a strange part. È stata una chiusura di 29esima settimana di Eclettica, un po' così. Cover prima dei Radiohead e poi una cover, sì, l'avrete riconosciuta, di un brano di Julian Casablancas, ovvero sia Reptilia. Abbiamo chiuso con una cover da parte di Howie Beck e questo è un brano non contenuto all'interno del suo ultimo disco omonimo che già ci eravamo ascoltate più volte, ma all'interno del nuovo singolo Don't Be Afraid c'è appunto questa cover che ha chiuso Eclettica questa settimana. Ricordatevi, Giulio@radiorockfm.com. Alla prossima!